9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 28 gennaio. Oggi un grande ragionatore si festeggia, San Tommaso d'Aquino, insomma, il fondatore con la sua Summa Teologica, fondatore no, ma insomma una delle più alte vette del pensiero raziocinante, declinato insieme alla fede, ma insomma del pensiero raziocinante. E la domanda che facciamo oggi vi chiede uno sforzo di non divisione in curve, nord e sud, con tutto il rispetto per le curve, perché le curve e i tifosi sono un aspetto fondamentale della vita, dello sport. Purtuttavia un paese che si avvita mese dopo mese nei suoi vertici istituzionali, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio, in vicende che sono quelle di cui da mesi siamo costretti ad occuparci, è un paese che restituisce, ci deve far fare ogni tanto un passo indietro, restituisce l'obbligo di farci fare un passo indietro, di interrogarci. Interrogarci sulla responsabilità che abbiamo noi stessi come operatori dell'informazione, che hanno i quotidiani, che hanno le testate televisive. È giusto e proporzionato rispetto alla gravità e alla particolarità delle vicende dare così tanto spazio, così tanta attenzione, 12, 13, 14 pagine di foliazione in media oramai quotidiane sulle testate di informazione della carta stampata, e tutto questo tambureggiare seguito di particolari dettagli sui nuovi fascicoli di settimana in settimana arrivano a fettine dalla procura alla Camera, trasmissioni televisive come quella a cui si assiste ogni sera, al di là della particolarità del fatto che siamo un paese in cui oramai si manda in onda una trasmissione come quella di Santoro, in cui il direttore generale della RAI esordisce dicendo che si dissocia a nome dell'azienda da una trasmissione che poi va regolarmente in onda, e quando si tratta di capire da che cosa si dissocia, la comunicazione formale del direttore generale dice che si dissocia da una trasmissione che potrebbe incorrere in errori e violazioni, potrebbe, ma se potrebbe non le ha ancora prodotte, e allora perché dissociarsi prima? Ma vabbè. Allora, la domanda che facciamo, come vedete, è molto semplice. Si pone il problema dal punto di vista della responsabilità di chi deve organizzare la gerarchia delle notizie, gli spazi o i tempi dedicati alle notizie, perché c'è un duplice rischio. Da una parte quello, se non lo si fa, di apparire volti per un interesse o per l'altro a voler minimizzare la questione, e spesso molti ascoltatori, nel nostro caso, ma lettori di giornali o telespettatori della televisione, accusano, rilevano da parte loro che se non si dà spazio adeguato e se non si scelgono gli ospiti adeguati, di solito a favore o contro a seconda della sensibilità di chi ti fa l'osservazione, vuol dire che tu sei colpevole di concepire un'informazione tesa a minimizzare, ai toni soft, cosa che viene immediatamente considerata come se tu fossi al servizio di una specie di sviatore permanente dell'informazione, e quindi a favore del Presidente del Consiglio, per non far rilevare agli italiani in ascolto o che leggono o che guardano le sue gravi responsabilità. Se invece dall'altra parte, come a me sembra, tendi a eccedere, io penso che ce ne occupiamo un po' troppo, a dire la verità, troppo, con troppa dovizia di particolari, è tutta diventata un'informazione sprofondata solo negli atti giudiziari, che a quel punto arrivano a puntate, così si continua ad alimentare la faccenda. Io penso che sia un braccio di ferro finale su reati che a questo punto non riguardano più neanche gli affari, la compravendita dei giocatori, le cose fiscali, su cui da 16 anni la magistratura ha provato ma è rimbalzata, e adesso siamo a il nucleo fondamentale dei valori individuali, erotici, sessuali, di come funziona l'immagine del premier con le donne e così via. E quindi è una specie di braccio di ferro finale e rischia di avvitarsi così per mesi, perché la soluzione politica, lo vedete, lo vediamo, qualunque sia il vostro punto di vista, alla portata di mano non c'è la soluzione istituzionale, è quella di un perenne avvitarsi. Io temo che lo spazio sia troppo, può essere che mi sbaglio, può essere che non spetti all'informazione cambiare la marcia, dar meno spazio, perché significherebbe venir meno a un proprio ruolo, ma vi consegno questa riflessione e chiedo a voi che telefonerete tra poco di darci un'opinione netta. E inizio a chiedere ai nostri interlocutori come la pensano loro. Chi sono i due ospiti di stamattina? E sono molto lieto che abbiano accettato. Sono da una parte, fa davvero piacere, Giampiero Mughini, che scrive su Libero, ma è un osservatore, commentatore, uno scrittore di quelli di cui ho più stima di questa Italia, perché quando parla, scrive e decide in maniera tagliente ed esprime la sua opinione, lo fa. Questa è la mia personalissima opinione da sempre. senza che mai ad alcuno sia facile o possibile dire c'ha una bandierina in mano, c'ha una testa, e a me le persone piacciono così. Per questo ringrazio Gian Piero Mughini, grazie a te e buongiorno. Ciao Oscar, ciao carissimo. E poi abbiamo il direttore del settimanale Tempi, Luigi Amicone, tagliente pure lui mica male. Buongiorno e grazie a Luigi Amicone. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Gian Piero Mughini, alla domanda come si risponde? Ma è difficile, diciamo, mettere la mordacchia a un argomento che dal punto di vista del costume, della risonanza politica, nel senso di quanto questo argomento sbatta sull'equilibrio politico, il governo, la stabilità, il destino di uno degli uomini pubblici più importanti nell'Italia degli ultimi 20-30 anni, Silvio Berlusconi, e poi c'è naturalmente una fame popolare di sapere come andava in quell'abitazione di un gran ricco, e c'è una fama popolare di sapere a dove arrivassero quelle sciacquette che in fila vediamo indagate, elencate, interrogate. No, io penso che questo sia un grande argomento popolare di commedia umana o disumana. E poi, ripeto, l'Italia è specchiata adeguatamente, perché c'è tutto, ci sono le donne, c'è la ricchezza, c'è la TV, e insomma, ragazzi, come si fa a tirarsi indietro? Sì, naturalmente ci sono alcune chiazze minori, per esempio io alla Nadia Macri non dedicherei nemmeno mezza riga, perché quando è troppo è troppo. Quando il ballismo e l'autopromozione è troppo, e però Nicole Minetti, ragazzi, è un personaggio degno di Balzac, come si fa a dire di no? Ed Emilio Fede, verso il quale io avevo una certa simpatia, perché Emilio Fede te lo faceva capire che lui non faceva seriamente il Berlusconi, il berlusconista al 100%, faceva perché bisognava campare, bisogna avere uno stipendio a fine mese e pagare i debiti di gioco, e adesso ha contro un'accusa da cui io spero che lui risorgerà, ma come fai a non dire che questo è Balzac? Ecco, però Gian Piero, in realtà se uno guarda i giornali, in pochi se lo sono ricordato che questo è Balzac, perché dire questo è Balzac è un eterno della commedia umana, come mi pare di capire ravvisi anche tu molti degli... ecco, mentre invece si tende a dire questo è l'eccesso di una cosa che c'è solo in questo paese, non c'è mai stata così, è un pazzo pericoloso lui, tutto è fuori dalla regola e dalle regole, non si è mai visto qualcosa di simile, che è un po' diverso dire basta prendere alcuni degli straordinari episodi della commedia umana, leggerla e capire che tutto, Stendhal, il rosso, c'è un po' di questa roba qua. Attenzione, mi rendo conto, lo sto dicendo, Gian Piero, stanno già arrivando gli sms degli ascoltatori che mi dicono servo. E questo è il punto, come si fa a evitare di sembrare servo se solo si evoca Balzac o il rosso e il nero? Dunque, il servo in questo caso sarei io o tu? No, il servo saremo entrambi se diciamo che in Balzac, e quindi c'è un eterno che viene descritto in questa commedia umana. Però, e non una vedi, violazione estrema. Vedi Oscar, c'è un punto molto importante della comunicazione mass mediatica che andrebbe sottolineato con forza. La comunicazione mass mediatica, io mi rendo conto, è aperta a tutti e ciascuno ha diritto di trasformarsi in opinionista, eccetera. Però non è che un asino che raglia, in questo caso l'asino che raglia è l'ascoltatore che ha mandato l'SMS servo, va preso troppo in considerazione. Un asino che raglia è un asino che raglia. Perché se lui avvisa un elemento di servilità nel ragionamento che stiamo facendo, è soltanto un asino che raglia. È la caratteristica della comunicazione mass mediatica moderna, caratteristiche tecnologiche, di apertura, eccetera, eccetera, è che gli asini che stavano una volta nella stalla adesso tagliano a forza di SMS, eccetera, eccetera. Dico, questo naturalmente che è cosa diversissima dalla ridda delle opinioni. Servo, Allora, tu dicevi, beh, naturalmente c'è un'altra cosa invece. Berlusconi è oggetto di una campagna ad personam, di un furore, di una letteratura, di un business culturale. Io mi chiedo, molti commentatori, molti giornalisti, eccetera, eccetera, il giorno che Berlusconi dovesse ritirarsi in una delle sue, mi pare che siano 20 ville, questi simpatici colleghi cosa faranno da grandi? Perché se la interpretazione della storia d'Italia, un'interpretazione che è diffusa, la fanno anche scrittori, intellettuali, e che da 20 anni, dal 1994, no, ma ancora prima, dall'invenzione della televisione commerciale, c'è un male assoluto, un demone, un creatore di un lestofante, un amico dei mafiosi, un eccetera eccetera. Beh certo, allora naturalmente Arcore, la Minetti, le gemelle De Vio, la Fagioli, Barbara Guerra, eccetera, non sono che la conferma ultima e grottesca di questo destino inconcepibile, di questo trionfo del male terrorizzante. E invece non è così che si interpreta, perché lui non è stato il trionfo del male, lui è stato un protagonista dentro un'Italia disastrata innanzitutto da Tangentopoli, cioè dalla cancellazione nello spazio di qualche settimana di tintinnar di manette di tutta una storia politica e partitica del nostro paese, e a quel punto è stata una corsa dei dilettanti allo sbaraglio, e chi era meno dilettante di altri o forse più carismatico o sicuramente più ricco ha vinto. Perché la questione è poi fondamentale, è inutile che ce la diciamo anche ieri a danno zero alla fine, non è quanto sia peccatore, malvagio e amico delle puttane Berlusca, il punto è, in luogo di Berlusca e contro Berlusca e come alternativa a Berlusca, chi ci va e a fare che cosa? Se qualcuno ha delle notizie in merito me le dica. Certo, se l'Italia è quella di oggi, che si va all'appuntamento elettorale e da una parte c'è il Berlusca e dall'altra parte c'è Di Pietro o Vendola, per i prossimi 200 anni vincerà il Berlusca. Amicone, c'è chi sostiene in tanti, una parte del paese nei sondaggi, che la separazione tra la morale individuale, tanto più in una materia delicata, scivolosa come quella del sesso, e la morale pubblica rappresenti la malattia gravissima del nostro paese, impersonificata nel suo Presidente del Consiglio. E questo sia il vero valore, al di là della fondatezza del reato, l'induzione alla prostituzione di minorenni, eccetera, eccetera, su cui incardina come fattispecie la dottoressa Boccassini le accuse. Su questo terreno, cioè sul fatto che nel nostro paese sia più o meno ricorrente questa accusa, anche se torna come sempre nuova, su Berlusconi sembra sempre nuova, e io capisco che a tanti italiani sembra sempre nuova anche per il carattere inedito di questo tipo di particolari, perché diciamoci la verità, un presidente del Consiglio della Storia Italiana che organizzasse così le sue serate e che portasse un pezzo della magistratura per anni a indagare su chiunque entri, chiunque esca, e ad aprirci questo spaccato di questo tipo di ragazza, eccetera, eccetera, così non c'era mai stato. Questo è un fatto. Ma l'accusa di separazione di morale individuale e morale pubblica, quella è una costante permanente della vita pubblica, anche se siamo arrivati al punto che adesso riguarda il sesso alle minorenni. Allora, di fronte a questo tipo di osservazione, di fronte a questo tipo di presenza che dice non sottovalutate il ruolo che come giornalisti voi avete per alimentare nel paese una reattività e una capacità di comprensione di che cosa debba essere sempre vigilante la coscienza sui temi della separazione della morale individuale da quella politica. Lei, come giornalista cristiano, come giornalista che dirige un settimanale come Tempi, eccetera, eccetera, che risposta dà a chi ci vede come antenne dell'indignazione più o meno permanente? Ma io dico che innanzitutto queste antenne dell'indignazione sono palesemente ipocrite, perché anche ammesso, e ci sta quello che diceva Gian Piero, la commedia umana, il diritto dovere di raccontarla, tutto questo abbiamo il diritto a dovere di raccontarla dentro, ripeto, le garanzie del diritto, cioè se queste carte fossero emerse a processo, dentro un processo, tutti hanno il diritto di commentare, guardarci dentro o pubblicizzarle. Ricordiamoci, oggi citava San Tommaso, bisogna tenere presente la situazione in cui invece ci siamo trovati, cioè lo scandalo ci è stato imposto innanzitutto, e questo è puramente fattuale, un'osservazione fattuale, perché? Non perché Berlusconi andasse in giro a far vedere quello che faceva o supposto faceva a casa sua, ma perché carte dell'accusa che dovrebbero rimanere segretate fino al processo sono state buttate in faccia alla gente, in giro per il mondo. Quindi lo scandalo è uno scandalo procurato dal quel combinato disposto che insiste ormai da 20 anni tra gli addetti ai lavori dentro i palazzi di giustizia e certi giornalisti che hanno un legame assolutamente privilegiato. Ricordo, abbiamo ieri intervistato un PM d'assalto di Lugano che ha fatto un protagonista di tante inchieste d'assalto in Svizzera e dice che questa cosa in Svizzera, in uno stato di diritto, non esiste. Esiste un addetto stampa dei tribunali, mentre i PM e i giudici devono lavorare sull'inchiesta rapidamente per portare le carte a processo, e l'addetto stampa dà notizie a tutti i giornalisti e mantenendo la correttezza delle indagini, perché, ripeto, è nel processo che le carte devono emergere, e dice che in Italia questa cosa non esiste, siamo un paese delle banane in cui gli scandali sono evidentemente viziati da questo fatto. Questo, attenzione, non è semplicemente un fatto morale che rende la nostra giustizia ridicola e, come dire, è uno strumento tendenzialmente eversivo, perché se c'è un potere dello Stato che sistematicamente fa in questo modo da 17 anni non va bene, ma è un problema di tutti gli italiani. Io vi ricordo che dal 1994 ad oggi ci sono anche inchieste come quella del signor Luigi De Magistris, che procurò la caduta di un governo di sinistra come quello di Prodi sulla base di che cosa? Per un anno siamo andati avanti a pubblicare robe farlocche sulla base di quello che poi sono stati i processi, cioè abbiamo procurato un allarme pubblico per un anno su P3, P5, P27, un grande complotto mondiale, l'abbiamo pubblicate sui giornali, le abbiamo scritte sui giornali queste intercettazioni. Dopo 2 anni abbiamo saputo che quasi tutti gli imputati sono andati assolti, c'è stato qualcuno condannato per abuso d'ufficio, ma non solo, sappiamo oggi che il signor Luigi De Magistris è imputato di abuso d'ufficio e di violazione della privacy. Per cui non è soltanto la questione di correttezza rispetto al diritto, è una questione per cui noi in Italia abbiamo perso tutte le occasioni di ripresa anche dal punto economico sociale, perché questo uso delle intercettazioni propalato sulla stampa ha procurato cambiamenti politici anche rispetto a fatti che non sono mai esistiti. È questo il fatto grave, al di là della morale. Poi sapete, cioè, ci sono colleghi che fanno giornali interpretando la loro funzione di giornalisti come semplici contenitori delle pagine delle accuse. Va bene, ognuno ha la testa che ha, ognuno pensa come vuole, interpreta il giornalismo. Ma al di là di questo modo di interpretare il giornalismo, c'è un fatto obiettivo, sociale, politico. Questo modo di fare ha procurato e procura un danno al paese, non solo alla politica, ma a tutto il paese, perché pone nelle condizioni per cui tante cose che si sono scritte, dette, pubblicate sui giornali si sono rivelate poi a processo non vere, e nel frattempo diciamo abbiamo perso 2 anni, andare dietro. Chiarissimo. Allora, ti fermo, in sintesi Giampiero Mughini dice non possiamo non occuparcene, è una grande storia italiana, è una grande storia di sempre, ma è una grande storia italiana. Dall'altra parte Luigi Micone dice attenti, con questo criterio e occupandosene troppo e senza saper dire no, ci si è tutti quanti ritrovati ad essere strumenti di una macchina che alla fine uccide il paese e delegittima tutto e soprattutto non consente mai di capire davvero a nessuno la fondatezza delle accuse, perché ciò che oggi sembra assolutamente divisivo, che non si dovrebbe mai neanche prendere in considerazione di non pubblicare con titoli grandi così, domani, tra un anno, tre anni, quattro anni, potrà sembrarci totalmente infondato. E in questa macchina ciò che trita è il paese stesso, la sua capacità di reggersi, di credere in qualche cosa, di condividere qualche cosa. Due tesi, come vedete, molto diverse, che sono entrambe lontane dal dire perché Berlusconi sì, perché Berlusconi no. Chi la pensa un po' come me e che nella vita i paesi contano soprattutto per quello che sanno fare, produrre, vendere, eccetera, preferirebbe, è vero, non occuparsi di Berlusconi, ma occuparsi un po' di più di questioni. Per esempio, in Danimarca c'è un grande dibattito sulle prime pagine di tutti i giornali, perché pensate che il piano per agganciare le pensioni, l'età pensionabile, è a aprite bene le orecchie, 74 anni, 74, avete presente che da noi pone un grande problema equiparare nel settore privato l'età pensionabile delle donne a quella degli uomini a 65, ed è un grande scandalo aver adottato un meccanismo temporale che tra molti anni, comunque in maniera finalmente automatica, ci porterà verso i 67. Ecco, in Danimarca pensano che sia 74. La Danimarca è un paese che rispetto a noi ha un tasso di fecondità più elevato, perché il nostro resta più basso, e 1,38 figli per donna nel nostro paese. Ricordo tutti che il tasso per garantire l'equilibrio demografico è 2,1, nel nostro paese è solo la componente straniera residente in Italia ad avercelo più elevato, e in Danimarca ciò malgrado si pongono il problema di andare in pensione a 74 anni, non da domani, ma 74 anni per chi è sul mercato del lavoro già da 10 anni, da chi è già super trentenne. Ecco, per essere chiari, forse pur pensando che noi dobbiamo dare molto spazio alla vicenda che ci offre la politica e le istituzioni, io penso che oltre alla preoccupazione illustratoci di Luigi Amicone, cioè quella di renderci strumenti delle procure, ci sia anche una questione di agenda setting, come dicono quelli che parlano in inglese, cioè di priorità. Forse l'informazione serve anche a offrire ciascuno al suo punto di vista una priorità su quello che dovrebbero essere le questioni su cui il paese dovrebbe mettere la testa. Il che non significa che poi non abbia ragione Giampiero Mughini quando dice: sì, ma come si fa poi a non occuparsi di queste storie così incredibili? Sentiamo come la pensano innanzitutto i nostri ascoltatori. Cominciamo con Gianluigi, che ci chiama da Ascoli Piceno. Prego, Gianluigi. Buongiorno. Dunque, io penso che si dia troppo risalto a questa notizia di Rubi e delle altre. Perché? Perché il problema è che in un periodo soprattutto di crisi così forte, anche alla media degli italiani, comunque il problema principale rimane sbarcare il lunario. Il fatto che sia anche eticamente così importante, moralmente, a parte che rimane tutto da dimostrare, premetto che comunque io sono contro questo governo, però mi sembra troppo sensazionalismo nei giornali. Ormai l'unico giornale che si riesce a leggere è il Sole 24 Ore, se uno vuole veramente delle informazioni che possano riguardare il proprio futuro, che comunque costituiscono qualcosa di pratico. Gianluigi, adesso lei naturalmente farà pensare a tutti che noi eravamo d'accordo, che la pubblicità editoriale del gruppo non era così, giuro, non lo so, comunque rispetto al suo punto di vista, per carità, lei dice comunque troppo risalto. Sentiamo Moreno, che ci chiama invece da Prato. Moreno. Buongiorno Oscar e complimenti. No, io volevo chiedere, il nostro presidente che stima ha di quello che ha creato, cioè il suo partito, e in particolar modo i ministri, la mattina quando si fanno la barba davanti allo specchio, che stima hanno di loro stessi? Altrimenti farebbero diversamente. Ti ringrazio, Oscar. Ah, quindi però tu non dai giudizio, hai approfittato per esprimere un'opinione. A questo proposito, poi su tutte le telefonate che sentiamo i nostri due ospiti, ricordo oggi per chi volesse trovare una risposta all'interrogativo che ha appena sollevato Moreno, c'è un bel pezzo, secondo me, firmato dall'Elefantino Rosso, quindi da Giuliano Ferrari sul Foglio. Il titolo è Mutandine di Chiffon. Vi leggo solo la sintesi sotto il titolo: caro cavaliere, comunque vada, le siamo amici. E Ferrara scrive: ma c'è anche l'estetica, con casori e mutandoni, con il resto gli hot pants. Ora siamo in mutande, vada in TV con d'avanzo, sia schietto e modesto, però una preghiera, ci ridia i pantaloni. Sentiamo Riccardo dalla provincia di Lucca, come la pensa Riccardo? Buongiorno Oscar, complimenti per la trasmissione. Prima di tutto volevo dire che sono d'accordo al 100% con quello che ha detto il dottor Mughini, ma io volevo chiedere una cosa, cioè volevo capire fino a che limite i nostri politici possono superare la legge. Questo è, di Berlusconi è l'ultimo caso, però in generale grazie all'immunità parlamentare o altri privilegi possono sempre eludere la legge, quando invece noi per qualsiasi cosa siamo costretti a trovarci davanti a un giudice oppure siamo costretti a subire magari delle ingiustizie. Quindi secondo me bisognerebbe che anche loro a un certo punto si vedessero costretti a rispondere delle proprie azioni. Quindi troppa impunità, sì, poi alla fine dà la testa. Sì. Perfetto, benissimo, questo è un altro elemento ancora. Lorenzo, ci chiama dalla provincia di Brescia. Prego Lorenzo. Buongiorno, sono un po' rauco, mi spiace. No, la cosa molto semplice è questa, e non sarà niente di nuovo, però semplicemente questo. Io trovo un po', diciamo, un po' di ipocrisia nel dire da parte di Amicone che ci vuole, bisogna parlare di cose più importanti e non di queste cose, perché queste cose, allora, sicuramente i giornali amici di Berlusconi per primi hanno sfruttato per mesi le storie della casa di Monte Carlo come se questo fosse un argomento importante per tutto il paese. Loro sono abituati a fare questo modo di trattare, in questo caso devono difendere il loro presidente, quindi dicono che non bisogna parlare di queste cose. Questo è semplicemente il mio pensiero. Posso farti una domanda? No, aspetta, certo. Posso fare una domanda? Dopo 16 anni in cui andiamo a botte di inchieste, delegittimazioni per una parte, delegittimazioni per l'altra, la tua impressione è che ci sia solo una parte, tu hai detto Amicone, diciamo, ha individuato la parte giornalistica, magari anche una parte politica, diciamo così, solo una parte che fa questo giochetto, che utilizza queste cose secondo tempi e modalità, secondo il proprio comodo, come hai detto, oppure è un gioco collettivo, ci sono tutte e due le parti, oppure, peggio ancora, c'è chi tira le fila di questo gioco, che poi è chi fabbrica gli atti giudiziari, perdona, e chi ne diventa strumento diventandosi due. Qual è la tua opinione dopo questi 16 anni, dal tuo punto di vista? Con rispetto di come la pensi, ma... Allora, una prima cosa è questa, che si dà legittimità a una verità processuale soltanto quando una persona abbia subito 3 gradi di giudizio, e si attribuisce uno stato di verità assoluta, quasi rivelata da Dio, al fatto che i magistrati siano eversivi, cioè mai stati fatti processi, eccetera, però i magistrati sono ormai stati sentenziati come eversivi, e questa mi sembra una anomalia. Sicuramente anche gli altri giornalisti usano questo gioco e sfruttano questa cosa, cioè, allo stesso modo. Ecco, cioè, Repubblica e D'Avanzo ci sono, non è che me l'invento io, no? Ecco, questo voglio dire. Ma indubbiamente, comunque, cioè, chi ha cominciato e ha accolto per primo che questo meccanismo, questo modo andava bene per attaccare gli avversari, non venga adesso a dire che invece bisogna occuparsi di cose più importanti. Ok, ok. Il problema è, non perdiamoci adesso nella catena delle generazioni su chi dà la colpa a chi di aver cominciato, perché immagino che su questo le due curve non si troverebbero mai d'accordo. Sentiamo ancora Antonio, che ci chiama da Milano. Antonio, prego. Sì, Giannino, buongiorno a tutti. Ascolti, io sono un nonno, perciò anche papà, qualche volta mi hanno chiamato anche papi, anche me, perché credo tutti i genitori, qualche volta qui in Alta Italia, papi. Va bene, ascolti, io sono rammaricato, molto rammaricato, perché nelle trasmissioni varie ci si arrampica e si difende l'operato di una persona, io Antonio, che sono nonno e sono anche papà, perciò ho delle nuore o dei generi. Porca miseria, ma se io mi comporto male, se io faccio delle cose che siano poi penalmente gravi o no, ma se io trascuro la famiglia, non pago il gas, non pago l'acqua, le lascio al freddo perché tutte queste cose, ma lei capisce che al di là della penalità io sono una persona attaccabile? Ora, i miei figli per pudore potrebbero non denunciarmi al pubblico fuori, ma le mie nuore, i miei generi, che ne hanno piene le scatole di vedere un uomo che trascura la famiglia e fa il puttaniere o va a fare cose del genere. Perciò la famiglia Italia, tutti quanti noi, compreso giornalisti, compreso tutti, ma come ci si arrampica su muri per dire questa persona ha atti privati? Ma atti privati un par di scatole, questo è un uomo che deve far bella figura a tutti, ai buoni e ai cattivi dell'Italia, perché lui è il padre di tutti. E quindi al di là del merito, che capisco e rispetto dal suo punto di vista, lei dice bisogna occuparsene altro che, perché questo è un grande scandalo. Come vedete i punti di vista dei nostri ascoltatori? Vedono lo scandalo prevalere e quindi l'invito all'informazione a occuparsene e a picchiare, tranne il fatto che poi si resta divisi sui punti di vista. In questi 16 anni, se per chi ha vissuto nell'Italia precedente, ci ha fatto il mestiere dell'informazione in diversi campi, ma quanto in realtà strutturalmente questa capacità della magistratura di fare lei l'agenda nazionale ha modificato il recinto stesso in cui ci si muove in questo tipo di dibattiti, creando questa nuova modalità di cui alla fine un po' siamo tutti prigionieri rispetto a prima? C'è solo un cambio di quantità e di modalità per il tipo di indagine che hanno fatto su Berlusconi, tutti i tentativi eccetera, o è cambiato davvero qualche cosa nelle regole del gioco tra informazione e magistrato? La data post quem ovviamente è quell'era 1992-94, quando i magistrati d'accusa diventano i capi morali dell'Italia. Antonio Di Pietro in quel momento lo avessero candidato, non dico presidente della Repubblica, ma allenatore della squadra nazionale di calcio, lo eleggevano a colpo. L'Italia ha applaudito il lancio delle monetine, o comunque una larga parte dell'Italia ha applaudito il lancio delle monetine a un uomo, Bettino Craxi, di cui mi dicevano che quando andava a cena e si sedeva sul divano si formava una fila lunga 10 metri di questuanti. Allora, questa Italia che abbiamo conosciuto più volte nella sua storia, il 25 luglio 1943, sino al giorno prima, non dico il 100% degli italiani, ma il 60-70 erano ancora fascisti, l'indomani sono tutti antifascisti, l'abbiamo visto in un altro campo, va bene, nel 2006 nello sport, quando un uomo che era venerato nel mondo dei giornalisti sportivi eccetera, è diventato improvvisamente il magnete del male. Esatto. Allora, quella è la data post quem. A partire da quella data, 92-94, l'invio di una comunicazione giudiziaria, invio che nella sua natura è soltanto un informare un signore, guarda che c'è un'eventuale indagine, appresta la tua difesa, un invio di una comunicazione giudiziaria diventa uno schiaffo in volto e l'occasione meravigliosa per gettar giù un rivale politico. D'accordo? Naturalmente tutto questo avviene nel contesto di che cosa? Di una politica che ha un livello medio, diciamo un livello medio, un livello tecnico professionale medio molto basso, di una classe politica che io dico è come se nel calcio dicessimo giocatori di serie C, e poi naturalmente di una situazione abnorme. Qual è la situazione abnorme? La situazione abnorme che uno dei capi politici del paese, addirittura uno dei capi politici del sistema bipolare, in cui i capi politici apparentemente dovrebbero essere due, uno dei due è proprietario, non dirò di metà del paese, ma certamente di metà dell'artiglieria mass mediatica di questo paese. Perché io non la faccio tanto lunga, però ragazzi, è un fatto, non è mai successo nella storia, non so se del mondo, certo non nella storia italiana, che in uno scontro politico ideale così forte agiscano nel pieno dello scontro, armati di mitraglie, bombe e cannoni, dei professionisti dell'informazione o scritta o televisiva che sono nel registro paga di questo capo politico. Io trovo allucinante che nelle discussioni in corso a un certo punto venga portato come pezza d'appoggio un qualcosa che è avvenuto durante la trasmissione di Signorini. In tribunale, prima di testimoniare, tu devi testimoniare che non sei parente di una delle due parti in causa. Perché è ovvio che se io litigo con te, non è che posso portare a testimone moglie. Mia moglie che dice Oscar Giannino, che razza di figlio di mignotta che è. Non si può. Invece nel giornalismo è così. Ed è una cosa pazzesca. Io questo lo sento perché faccio parte di questo mondo, eccetera. Io lavoravo a Panorama. Panorama era un grande settimanale della Mondadori, diretto da un grande giornalista che si chiamava Claudio Rinaldi, il quale peraltro era un avversario alla morte di Berlusconi, ma un avversario leale. Il giorno in cui la Mondadori è stata comprata, lasciamo stare poi le circostanze, dal Cavaliere, quel giorno Panorama per me è morto. Poteva essere fatto da ottimi giornalisti, tutto quello che vuoi, ma era bello e morto. Questa è una situazione assolutamente insopportabile. Assolutamente. Non che quegli altri scherzino, nel senso che pur non essendo a busta paga di un proprietario, sono dei crociati e dei monaci. No, aspetta, però su questo la tua opinione la voglio. La controobiezione che viene dall'altra parte è dire no, sono a busta paga, altro che di un crociato, perché Carlo De Benedetti è uno che fa l'agenda politica, che ha scelto tutti i capi del PD, come li ha creati li butta giù, eccetera. E quindi siamo alle solite, perché ognuno legittima il proprio ruolo, il proprio eccesso, il fatto di avere un punto di vista che coincide con quello di un padrone, e non c'è niente di male finché lo si dichiari, ma quando diventa invece una specie di paraocchi politico, e alla fine diventa lo scontro tra due corazzate di cui si sa già come la pensano, come si fa a fidarsi di quello che dicono. Di fronte a chi obietta così, qual è la tua risposta? Con la sua testa, con la sua passione, con la sua fazione. Ma insomma, la situazione è quella, come hai detto tu all'inizio, ci sono le curve. Ora questa cosa delle curve è assolutamente insopportabile, perché le curve significa che tu sai fin dall'inizio che la curva A dirà e dagli lupi, e quell'altra dirà a morte i lupi. Insomma, questa è una cosa insopportabile. Un paese, siamo nel terzo millennio, i problemi sono quelli che dicevi tu, che c'è andare in pensione altro che a 65 anni, eccetera, eccetera. In Egitto lì crolla la diga laica. La diga laica sono cazzi, altro se voi che me lo permettete, e in questo momento metà dei combattenti dell'informazione è per una causa o un'altra, e naturalmente quando io dico i combattenti dell'informazione ci metto anche quelli che sono grotteschi, che cantano Bella Ciao in televisione. Okay. Allora, io chiedo invece a Luigi Amicone di dare la risposta a chi, sono tanti, perché gli sms che sono arrivati dopo l'intervento del nostro ascoltatore che ci diceva ma io che sono padre e sono nonno, se faccio la metà, un decimo di questo, la mia famiglia mi mette al bando. Come faccio a dire, pur con tutti i vostri argomenti, che non deve avvenire quantomeno lo stesso per il Presidente del Consiglio? Non è elementare buon senso questo, Amicone? Ma sì, innanzitutto volevo fare una considerazione sulle le osservazioni. Allora, vorrei chiarire, considero irricevibile quando l'ascoltatore dice ma voi Tulliani e Fini, io non ho fatto parte di questa partita, sono un giornale di una cooperativa, non sono a libro, sono abbastanza libero per ragionare. Detto questo, io considero d'altra parte anche un paradosso che a questo punto si deve sospendere lo statuto internazionale di uno Stato come Santa Lucia, perché appunto non fa comodo considerare, bisognerebbe andare davanti all'ONU, tutto ciò che dice Santa Lucia non va bene, quindi mi sembra un po', no? Quanto alla legge che alcuni non possono rispettare, no, c'è una legge che è uguale per tutti, e ho qui sott'occhio che è vietata la pubblicazione anche parziale degli atti non più coperti dal segreto finché non siano concluse le indagini preliminari. È un fatto che le indagini sono in corso e che il giorno dopo che Berlusconi con apostrofa Gallerne escono delle intercettazioni che sono state fatte 2 giorni prima. Tutto ciò è la questione, la legge, cioè, la legge violata costantemente, no? Violata costantemente. Questo, l'altra cosa della io non sono io che devo valutare la morale di un capo politico, nel senso che da questo punto di vista mi verrebbe l'obiezione di miei amici, amiche anche femministe, Angela Zaro o Piero Sansonetti, che dice: ma siamo pazzi, ma noi abbiamo combattuto per anni per l'emancipazione sessuale, per la libertà di ognuno, e adesso la legge, sulla base di un'inchiesta, io devo giudicare la condotta morale di un principe, di un re, che è sempre stata abbastanza discutibile sotto tutti i regni e sotto tutte le politiche. Io la giudico sulla sua arte di governo, sulla sua capacità di rispondere appunto alle questioni, perché la politica è questo. Ok, Amicone, questa è la tesi di Amicone. Come vedrete, il dibattito resta. Io tutto sommato penso che comunque, pur dovendosene occupare e pur non nascondendosi questa anomalia della magistratura che ci fa danzare su questo, anomalia che si aggiunge all'anomalia della politica italiana, dico che però un paese mette la testa su poi l'agenda dei problemi seri. Oppure ha ragione Gian Piero Mughini, la sponda sud del Mediterraneo ci ricorderà tra poco quali sono le vere priorità di cui non ci stiamo occupando. A lunedì, grazie a tutti.